Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Generazione mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi il nostro focus settimanale si concentra sul percorso professionale in università, grazie alla testimonianza di un giovane postdoc italiano da poco approdato in Francia per proseguire la sua formazione e intraprendere una carriera accademica oltralpe. Ma il nostro giro d'orizzonte sulle opportunità lavorative in università non si fermerà qui, vi regaleremo preziosi consigli utili anche sul resto d'Europa e oltre. Tutti i tirocini e i lavori del momento in Europa, ma non solo, ci faranno compagnia nella rubrica di apertura Toolbox insieme a Federico Fabiani di Scambi Europei. Alessio Romeo tornerà nella seconda parte della puntata con i trend del momento a livello globale sul fronte lavoro, mentre a chiudere vi porteremo in Canada, dove un'associazione Comites di connazionali nel Quebec sta fornendo un aiuto concreto a tutti gli italiani che espatriano in Nord America. Tra poco scopriremo come. Lione ci aspetta per andare a conoscere il testimone della settimana e imbarcarci con lui in un percorso di esplorazione delle opportunità nel settore accademico. Restate con noi. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana arriva da una ricerca realizzata da Talents in Motion insieme a PwC su un campione di 1100 intervistati. Il 71% di loro sta valutando di rientrare in Italia dall'estero, il 20% sostiene che la crisi pandemica alimenta la propensione dei giovani expat a tornare nella penisola, aprendo così opportunità a livello di sistema paese. Ma cosa spinge a un ritorno in patria? Nell'82% dei casi i ricongiungimenti familiari, mentre solo il 16% ritiene che il controesodo possa generare maggiori possibilità di carriera e crescita professionale nel bel paese. Bene, è arrivato il momento di Toolbox, dove torna a farci compagnia il portale Scambi Europei. Ogni due settimane vi proponiamo segnalazioni utili e imprescindibili, nonché aggiornatissime, su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi, come sempre, Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana, selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Iniziamo con il nuovo bando annuale promosso da Ministero dell'Istruzione, Ministero degli Esteri e CRUI, che offre oltre 100 borse di studio per lo svolgimento di tirocini curriculari presso ambasciate, rappresentanze, consolati e istituti italiani di cultura all'estero. I tirocinanti saranno impiegati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione dei dati utili per l'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna sede. E inoltre verranno coinvolti anche nell'organizzazione di eventi e nell'assistenza del personale. I requisiti per partecipare sono essere uno studente universitario con meno di 30 anni, aver acquisito almeno 60 crediti formativi nel corso della laurea specialistica o magistrale, avere una conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2 e una media delle votazioni degli esami universitari non inferiore a 27 trentesimi. Il tirocinio prevede l'assegnazione di crediti universitari e un rimborso spese di 300 euro al mese. Si svolgerà tra l'11 gennaio e il 9 aprile 2021 e ha una durata totale di 3 mesi, prorogabile per un altro mese. La scadenza per inviare la propria candidatura è il 30 ottobre. Ci spostiamo in Lussemburgo, dove la Corte dei Conti Europea sta offrendo dei tirocini per laureati in ambito amministrativo, di politiche pubbliche, giurisprudenza o simili, che abbiano una buona conoscenza di una seconda lingua europea oltre alla propria. Il tirocino ha una durata variabile tra i 3 e i 5 mesi e prevede un rimborso di 1.350 euro al mese. Il prossimo flusso si svolgerà a partire dal 1 marzo 2021, mentre la scadenza per candidarsi è il 30 novembre. Il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e della Ricerca slovacco promuove il National Scholarship Program, un programma che ha l'obiettivo di sostenere studenti, ricercatori, artisti e dottorandi che vogliano approfondire o proseguire le loro ricerche presso un'università slovacca. Il contributo della borsa può variare dai 400 ai 1.050 euro mensili in base ai titoli del candidato e in più è previsto un rimborso per le spese di viaggio. I progetti hanno una durata che va da 1 a 10 mesi e la scadenza per inviare le proprie candidature è il 31 ottobre. Ci spostiamo a Londra per un'offerta dedicata ai laureati in giornalismo, scienze della comunicazione o materie affine. La CNN, infatti, una storica emittente all news americana, offre dei tirocini presso la propria sede di Londra. Tra le principali responsabilità del tirocinante rientrano l'attività di ricerca e verifica delle notizie, la partecipazione a meeting e i contributi alla redazione sotto forma di idee e storie da sviluppare. Sono disponibili due tipologie di stage, uno tradizionale e dedicato al lavoro della redazione ed un altro invece dedicato al mondo digitale e dei nuovi media. Il periodo di svolgimento del tirocinio è dal 1 gennaio al 30 aprile 2021. Mentre le candidature devono essere inviate entro il 1 novembre. Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info. E allora andiamo a conoscere il testimone della settimana. Si tratta di un postdoc 28enne da poco approdato a Lione dopo un percorso professionale in Ateneo che lo ha visto impegnato prima a Trento e poi in Germania. Eugenio oggi è in onda con noi per portare la sua esperienza come esempio in un viaggio formativo nel cuore delle accademie franco-tedesche. Buon pomeriggio Eugenio Verrina. Buon pomeriggio a tutti. Germanista di formazione, avendo frequentato scuole tedesche in Italia, all'università scegli economia e ti sposti a Trento, che lasci temporaneamente al terzo anno di triennale per trasferirti poi a Dresda. Per fare cosa, ma soprattutto, qual è stato l'impatto con l'Accademia tedesca? Sì, mi sposto a Dresda all'interno di un programma di doppia laurea che mi ha permesso quindi al termine degli studi di conseguire il titolo sia tedesco che italiano, e le differenze maggiori che ho trovato tra Germania e l'Italia sono state in primis il fatto che le lezioni fossero impostate in maniera abbastanza diversa, quindi raramente c'erano libri di testo e lo studio avveniva sulle slide o su alcune dispense. Di solito o quasi mai ci sono esami orali classici all'italiana e gli esami sono molto impostati sulla velocità, spesso domande multiple, e in più vengono complementati da varie attività di presentazioni e scrittura di piccole tesine. Dopo la laurea triennale decidi di proseguire la formazione a Trento per il master, iniziando a frequentare il laboratorio di economia sperimentale. Per la tesi ti sposti a Vienna, quindi sempre area germanica. Come hai trovato l'università austriaca? Non molto diversa dall'università tedesca, però in quella fase del mio percorso mi stavo affacciando al mondo della ricerca, quindi ho avuto modo di fare le prime presentazioni e presentare le prime idee di ricerca, e che questo poi mi ha avviato nel percorso successivo. Il percorso di dottorato tra Nottingham e Colonia, scegli quest'ultima, potendo scegliere, e proseguendo il tuo percorso così nel mondo germanofono. In quale istituto ti sei recato e che tipo di dottorato hai scelto? Ho scelto un programma congiunto tra il Max Planck Institute di Bonn e l'Università di Colonia. Magari buono spendere qualche parola sul Max Planck, una realtà molto interessante, un istituto di ricerca pura che è attivo in vari campi, dalla fisica all'economia. Ci sono stati addirittura due premi Nobel quest'anno, uno per la fisica e uno per la chimica, e dà la possibilità a chi scelga dottorato all'interno di questo istituto di perseguire solo la ricerca. Infine arriviamo al percorso di postdoc, col quale concludiamo il rapido excursus sulla tua carriera universitaria. Come sei arrivato a Lione pochi mesi fa e per fare cosa? Sì, esatto, sono arrivato a Lione a metà settembre, quindi poco fa, e questo che sto facendo ora è un postdoc di 2 anni e mezzo, dove continuerò a occuparmi dei temi che ho avviato durante il percorso di dottorato. Eugenio, passiamo ai consigli pratici per aspiranti postdoc. Facciamo un passo indietro, torniamo al dottorato. Quali condizioni offre la Germania? Come accennavo prima, la Germania ha un ampio panorama di opzioni. Esiste il Max Planck, esistono le università. Esiste il Fraunhofer Institute, che invece è più rivolto alle scienze applicate e all'ingegneria, e poi un panorama di molti istituti più localizzati. Esistono poi contratti veri e propri di lavoro come al Max Planck o borse di studio, e in generale in Germania si hanno grandi vantaggi quando si è studenti, perché si può accedere gratuitamente ai trasporti pubblici e si hanno vari altri sconti, quindi delle condizioni direi molto buone. E come cercare un postdoc? Hai dei siti o dei riferimenti da consigliare? Sì, esistono diversi siti che dipendono poi dal paese o dalla disciplina esatta. Ad esempio per la mia disciplina si fa riferimento all'Economic Science Association, ma negli ultimi anni si è sviluppata anche nel panorama europeo il cosiddetto job market, che è una specie di fiera del lavoro dove si concentrano tutte le offerte di lavoro principali di università, istituti di ricerca e anche istituzioni. Focalizziamoci proprio sul job market perché è un punto molto importante. Quali sono i tuoi consigli per non sbagliare e cogliere appieno questa opportunità? Allora, il fulcro del job market è sicuramente il cosiddetto job market paper, cioè l'articolo con cui ci si presenta presso questo job market. Deve essere un articolo ben sviluppato su un tema che si padroneggia bene e nel quale si può dimostrare di aver contribuito in maniera principale. È importante ultimarlo sufficientemente prima del job market, e poi intorno a questo job market paper c'è il cosiddetto pacchetto, che è composto da una motivation letter che può cambiare o meno a seconda delle domande che si mandano, e poi un research statement e un teaching statement dove si esprimono le intenzioni di ricerca e di insegnamento se richiesto. È importante poi sviluppare e allenare bene il cosiddetto pitch, che sarebbe un discorso di 2, 5, 10 minuti in cui si spiega il contenuto del paper e si cerca di renderlo appetibile a chi sta ascoltando. Inoltre, poi una volta si avvicina il job market, consiglio di mandare molte domande di lavoro. Io ne ho mandate 70-80, c'è chi anche ne manda più di 100, e soprattutto di prenderla come un'opportunità anche di crescita e di confronto, non solo come uno stress, perché può essere stressante, ma dà anche grandi possibilità. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Eugenio Verrina, 28enne postdoc nella città francese di Lione, dopo un percorso accademico svolto quasi interamente tra Italia, Germania e l'area di lingua tedesca. Con Eugenio stiamo facendo un excursus sulle opportunità professionali in Ateneo per giovani dalle ambizioni internazionali. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. In un flash, il tuo primo impatto con la realtà accademica francese da postdoc è molto diversa da quella germanofona? A entrare nella realtà accademica francese in generale non è facilissimo, perché è una realtà abbastanza nazionale e con delle regole particolari. Poi esistono però anche istituti a vocazione internazionale, come ad esempio quello dove sono ora, che a dire il vero non è molto diverso dall'istituto dove ero in Germania. Ci sono tanti italiani come sempre e tanti altri ricercatori di origine straniera. Eugenio, il tempo corre, per cui devo chiederti di accorpare i consigli di vita pratica sul cercare casa tra Germania e Francia. Quali sono i siti migliori? Sì, per quanto riguarda la Germania consiglio WG-Gesucht, dove si possono cercare sia monolocali che bilocali o stanze in appartamenti condivisi. Si trovano un sacco di annunci, bisogna mandare un piccolo messaggio di presentazione e si viene poi chiamati per andare a vedere la casa. In Francia ugualmente esistono dei siti, il migliore a mio avviso è Le Bon Coin, dove si può cercare da bici, appartamenti, a quello che si vuole. Anche lì bisogna mandare un piccolo messaggio di presentazione e poi un dossier, ossia un insieme di documenti che vengono spesso richiesti per affittare un appartamento. Ci raggiunge ora in linea Matteo Ploner, professore associato di economia all'Università di Trento, con esperienze tra Germania e Stati Uniti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Eugenio è stato un suo studente all'Università di Trento negli anni, poi siete anche rimasti in contatto. La prima domanda che le pongo riguarda ovviamente quanto la carriera di Eugenio possa rappresentare un modello in piccolo per una formazione accademica internazionale. Sì, Eugenio ha mostrato da subito un grande interesse per il dibattito economico internazionale, per la ricerca scientifica, e aveva già un percorso fatto in precedenza di esposizione a cultura internazionale, quindi sicuramente lui rappresenta un esempio eccellente nell'ottica di internazionalizzazione. Lui ha scelto presso di noi il Master in Economics, un master in inglese che ha già un'apertura verso l'estero e predispone anche al proseguimento verso un programma di dottorato all'estero. Lei consiglia di non guardare solo a un dottorato in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, perché ci sono anche ottime soluzioni alternative. Quali? Sì, il dottorato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna rimangono ovviamente i più ambiti, ma anche in ambito europeo continentale ci sono delle ottime opportunità. I paesi ovviamente sono la Spagna, la Francia, la Germania, ma penso anche all'Olanda. In ognuno di questi paesi esistono delle ottime destinazioni, quindi il mio consiglio è sempre selezionare le destinazioni migliori per la propria vocazione, per la propria attitudine e cercare appunto un possibile collocamento nei programmi di dottorato in questi paesi, paesi europei che facilitano ovviamente anche la mobilità. Come parlate spesso anche nella trasmissione, spostarsi negli Stati Uniti richiede delle lunghe procedure di visto, ovviamente lo spostamento in Europa ha dei vantaggi da questo punto di vista. Chiaramente ci sono ovviamente anche poi dei pesi economici a sopportare, in questo senso ci sono borse di studio utili per inseguire il progetto di un dottorato e come trovarle? Sì, tipicamente una posizione di dottorato è associata a un finanziamento, a una borsa di studio, ovviamente bisogna presso le singole istituzioni documentarsi su quali sono le condizioni per ottenere questo supporto economico. In alcuni paesi, come ad esempio l'Olanda, addirittura la posizione di dottorato viene equiparata a una posizione di assunzione presso l'istituzione con tutti i benefici del caso. Quindi ciascun paese bisogna verificare presso le singole istituzioni, però è molto comune appunto che con una posizione di dottorato si acceda anche a delle risorse economiche. Le chiedo, professor Ploner, un ultimo spunto di riflessione riguardo alla possibile carriera lavorativa al di fuori dell'università. Qui lei cosa consiglia? Soprattutto diciamo a chi studia economia. Sì, ovviamente la disciplina economica è appetibile anche per il settore privato, soprattutto in alcuni paesi nei quali ho avuto anche esperienze dirette come la Germania. Il titolo di dottorato, il PhD, è un titolo apprezzato dalle imprese, quindi sicuramente è una carta da giocare. Consiglio soprattutto quando ci si presenta presso un'impresa di valorizzare quella che è la propria esperienza, il proprio metodo di lavoro, quindi la capacità critica, la capacità di affrontare una domanda in maniera scientifica e di rispondere appunto secondo il rigore della ricerca scientifica. Grazie a Matteo Ploner per i suoi preziosi consigli e abbiamo una domanda a diritto per Eugenio Verrina. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Il mio consiglio è quello di iniziare, di provare, di iniziare a cercare. Spesso non è così difficile come può sembrare all'inizio andare all'estero, specie in Europa, quindi di provare a vedere quali sono le possibilità, di chiedere, di non aver timore di chiedere. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche questa settimana torna a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci. Oggi dedichiamo questo appuntamento ad un tema molto importante legato sempre all'effetto Covid e di immediato riflesso su quella che sarà l'evoluzione del mondo del lavoro e le opportunità che la caratterizzeranno. Il 2020 è stato l'anno più stressante di sempre per i lavoratori di tutto il mondo e le persone desiderano essere aiutate anche con strumenti che usano l'intelligenza artificiale. È ciò che emerge da un nuovo studio di Oracle Workplace Intelligence, una società di consulenza e ricerca per le risorse umane che ha coinvolto ben 12.000 persone da 11 paesi di tutto il mondo, rilevando che la pandemia Covid-19 ha aumentato lo stress, l'ansia e il rischio di burnout sul posto del lavoro. Emerge inoltre che chi si trova in difficoltà preferirebbe rivolgersi a bot potenziati dall'intelligenza artificiale, invece che ad altre persone. Le nuove pressioni subite a causa della situazione globale si sono sovrapposte ai fattori di stress abituali legati al lavoro, tra cui pressione per raggiungere risultati, la gestione di attività noiose e o di routine ed il fatto di dover affrontare carichi di lavoro sentiti come ingestibili. I lavoratori dunque vogliono aiuto e si rivolgerebbero alla tecnologia piuttosto che alle persone. Quindi le persone vogliono di più dalla tecnologia oggi, non desiderano solo strumenti di collaborazione efficaci per lavorare, ma anche strumenti di sostegno al loro benessere mentale. Questo perché le persone ritengono che un'intelligenza artificiale possa creare una free zone, cioè una zona priva di giudizio, che possa essere un interlocutore imparziale che possa fornire risposte rapide su domande specifiche relative alla propria salute mentale. Il 75% afferma che l'intelligenza artificiale ha già dato un contributo positivo al benessere psicologico in quanto strumento di lavoro, e vantaggi rilevati sono stati quali quelli di disponibilità delle informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, l'automazione delle attività e la riduzione del carico di lavoro, prevenendo il burnout, la riduzione dello stress grazie al supporto nel dare le giuste priorità alle varie attività da portare avanti. L'83% della forza lavoro globale vorrebbe che la propria azienda fornisse tecnologia per supportare il benessere psicofisico e la salute, come ad esempio servizi di accesso al self-service e alle risorse sanitarie, servizi di consulenza su richiesta, strumenti proattivi di monitoraggio della salute, l'accesso ad app per il benessere o la meditazione e chatbot per rispondere velocemente a domande relative alla salute. Infine, lo studio ha rilevato altri problemi legati al lavoro da remoto. L'84% dei lavoratori nel mondo ha dichiarato di aver affrontato delle difficoltà, quali la mancata distinzione tra vita personale e lavorativa, problemi di salute mentale quali stress e ansia che per il 42% del campione fanno precipitare la produttività personale. Infine, il 40% ha affermato che ciò porta ad esempio a prendere decisioni meno efficaci e ponderate. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi voliamo insieme fino in Canada, più precisamente nel Quebec, per raccontarvi le attività del Comites di Montreal, che ha avviato un progetto nome in codice Unique con l'obiettivo di assistere e indirizzare i nuovi italiani in arrivo o quelli che hanno intenzione di partire alla volta del paese. Ci spiega tutto Giovanna Giordano, presidente del Comites di Montreal. I Comites sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3.000 connazionali iscritti all'AIRE. Voi avete realizzato lo sportello informativo Unique. Che tipo di aiuto concreto date, soprattutto ai giovani che vengono a chiedere informazioni? Lo sportello Unique, che significa Uffici Nuovi Italiani nel Quebec, l'abbiamo fondato perché è iniziato verso il 2010, anche prima, che arrivavano molti giovani dall'Italia che soli, senza nessuna famiglia, e cercavano di essere inquadrati un po' nel Quebec, le leggi provinciali e federali, cosa bisognava fare per trovare un lavoro e come comportarsi, perché comunque qui nel Quebec si parla il francese, è esigente parlare francese, anche l'inglese, magari all'inizio con l'inglese ce la fai, ma poi il francese è essenziale, perché tutte le domande che si fanno e le interviste che si fanno per qualsiasi lavoro devono essere fatte in francese. Quello che hanno scoperto i giovani che sono arrivati dall'Italia, sono trovati questa barriera con la lingua, devo dire la verità, perché hanno studiato magari molto l'inglese ma non il francese, non tutti. Ecco, noi siamo di aiuto, di assistenza, di qualsiasi assistenza che hanno bisogno, perché quando vengono da noi cerchiamo di capire un po' da dove vengono, quali sono le loro qualifiche, che cosa cercano veramente, però sai, non è che appena arrivi, se sei un insegnante, trovi subito una sistemazione nell'insegnamento, no, devi comunque adattarti ad altri lavori. E la prima cosa che devi avere è il tuo permesso di lavoro, perché senza il permesso di lavoro non si può lavorare. Una volta che si trova il lavoro, perché hai una permanenza di 6 mesi, devi cercare di farti sponsorizzare dal datore di lavoro e così puoi prolungare la tua permanenza. I suoi consigli personali per un giovane che volesse tentare la sua strada professionale in Quebec, in Canada, quali sono i settori che offrono maggiore occupazione? Io consiglio sempre di cercare di contattare dei datori di lavoro prima di partire e di informarsi di cosa hanno veramente bisogno. Consiglierebbe invece il Canada come meta di studio, magari università, master? Bisognerebbe partecipare a dei programmi di scambio che sono organizzati dalle singole università italiane e che sono in collaborazione con le università canadesi. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.esteri.it sezione Comites. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Soprattutto ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero semplice. Occorre solo scrivere a generazionemobile@radio24.it. Aspettiamo le vostre lettere. E finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto allora i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13:30, sempre su